A bordo campo di Dario Ricci. Finché non ci sarà, diciamo, questa garanzia che Gheddafi non è più al potere, allora si potranno fare le cose, altrimenti non accetterei questo ruolo senza sapere, insomma, dove andare a cadere, ecco. E la voce che avete appena sentito è quella di Claudio Gentile, l'ex CT azzurro della Nazionale Under 21, campione del mondo nel 1982, bandiera della Juventus e della Fiorentina. Beh, sapete, lui è nato a Tripoli e proprio ai nostri microfoni qui a bordo campo aveva confessato il desiderio di allenare la Nazionale Libica una volta caduto il regime di Gheddafi. Beh, staremo a vedere. Quel che è certo è che il regime di Gheddafi, del colonnello, è caduto, la Libia è avviata su un percorso di rinascita, di ricostruzione, tutto da scrivere ancora, però è anche da scrivere il percorso di rinascita calcistica di questo paese. E allora oggi proprio di Libia e dintorni parliamo con direi soprattutto un amico di Radio 24 e di A Bordo Campo, ma che professionalmente però è anche un preparatore atletico di livello mondiale. Nel suo palmarès ci sono due o tre date fondamentali: è stato preparatore atletico del Ghana ai mondiali del 2006, dell'Inghilterra di Fabio Capello ai mondiali di Sudafrica 2010 e del Chelsea di José Mourinho. Allora, bentornato qui a Radio 24 A Bordo Campo a Stefano Tirelli. Grazie, è un piacere sempre venire qui con voi e da voi, grazie. Piacere reciproco, Stefano, anche perché sei reduce da una gita di lavoro ad Abu Dhabi che proprio nel futuro calcistico della Libia aveva e ha avuto il suo motivo di interesse principale, vero? Sì, è stata un'esperienza molto interessante perché un mio carissimo amico Jihad Muntasser, libico, e il suo zio proprio Karim Muntasser mi hanno chiamato per invitarmi a questa esperienza che loro hanno organizzato, ossia questa partita di beneficenza a favore dei bambini libici che sono stati feriti in guerra e che hanno bisogno di assistenza sanitaria e anche delle cose più importanti come per esempio essere operati e quindi portati in ospedali nelle varie parti d'Europa dove è possibile ospitarli. Per cui loro hanno organizzato questo bell'incontro internazionale tra calciatori sia italiani che di livello anche mondiale. E io ho dato come possibilità, diciamo, il mio tempo e il mio lavoro per partecipare. Ho detto: io non posso fare altro, però posso darvi il mio tempo e il mio lavoro, per cui sono stato 4 giorni lì a Dubai. Tra l'altro, insomma, hai messo mano su muscoli di non poco valore, a partire da quelli del capitano dell'Inter Zanetti, no? E poi qualche altra decina di campioni. No, infatti sono stati bravissimi perché tra i vari campioni c'erano proprio Zanetti, del nostro campionato Crespo, direi ancora Materazzi, anche se non è in questo momento in attività, e poi altre personaggi molto molto importanti dal punto di vista atletico, esempi anche di sport come Pavel Nedved, poi internazionali Pires, vecchie glorie come il tacco di Alhamager. Caspita, Coppa Campioni sgraffignata al Bayern Monaco in coppia con Juari. Sì. E poi come allenatori c'era da una parte Zenga, dall'altra Lippi. E diciamo tante persone che sono così, che hanno messo a disposizione il loro tempo, e devo dire che è stato anche un piacere lavorare con alcuni dei giocatori con i quali mai ho avuto esperienze precedenti, e per cui tra questi direi che insomma mi ha fatto molto piacere conoscere in modo più approfondito per esempio Zanetti e Crespo, che non conoscevo molto molto bene. Tra l'altro invece datate a qualche anno fa le amicizie libiche, perché tu quel campionato hai avuto la fortuna e l'esperienza di poterlo praticare dal vivo in un anno in cui il Made in Italy andava per la maggiore, no? Sì, nel 2002 è stata la mia prima esperienza all'estero, poi da allora ho iniziato a viaggiare per il mondo, ma quell'esperienza è stata molto molto formativa per me, proprio perché è avvenuta in un ambiente molto difficile. Io ho lavorato per alcuni mesi con l'allora allenatore dell'Al-Ittihad, quindi la squadra di Al-Sadi Gheddafi, uno dei figli dell'ex presidente libico, e che era Eugenio Bersellini, mentre nel contempo c'era anche l'allenatore della nazionale, appunto, che era Scoglio, per cui ho avuto poi tempo e occasione di lavorare con entrambi. Beh, allora è inevitabile chiederti qual era il clima che si respirava in questa formazione. Le cronache di questi mesi ci hanno ricordato il modo del tutto particolare, uso un eufemismo, con cui Sadi intendeva il calcio e la gestione dello spogliatoio, no? Vessazioni nei confronti dei calciatori che non rispettavano le proprie direttive, la volontà di prevaricare anche il ruolo dell'allenatore nel fare la squadra, insomma. Confermi oppure? Ah, purtroppo confermo perché ricordo che l'esperienza è stata veramente provante, in quanto innanzitutto al di là dei calciatori e della parte appunto sportiva ho avuto modo di conoscere tanti ragazzi ai tempi con i quali parlavo e che non avevano ovviamente neanche il coraggio di pronunciare il nome Gheddafi perché avevano paura di essere spiati, sentiti e quindi immediatamente mandati in carcere. Per cui si lamentavano con me, giustamente dicevano: questo è un paese dove non abbiamo, nel quale non si può avere la libertà, quindi il bene più prezioso che ci appartiene nella vita. E però ricordo che non c'era neanche la possibilità da parte loro proprio di pronunciare il nome. Tra l'altro, cosa molto bella, uno di questi ragazzi l'ho ritrovato poi a Dubai, era lì che fa il traduttore per Maradona Ah, attualmente. per la serie piccolo il mondo anche del calcio, insomma. Ero proprio sul campo e mi sono sentito chiamare, mi sono girato e lui era nelle prime file degli spalti. E è stato bellissimo vederlo a vivo, perché in queste occasioni non sa neanche chi è rimasto vivo o meno. Certo. E poi vederlo in una situazione di libertà, comunque, infatti è stato un momento molto toccante. Poi per quanto riguarda invece le situazioni nello specifico calcistiche, effettivamente la situazione era paradossale, quindi c'era questo figlio del presidente Gheddafi che ovviamente voleva sempre giocare, lo dico in modo sembra che si parli di un bambino, ma d'altra parte nel momento in cui un essere umano non conosce in ambito familiare il senso del rispetto, vive e pratica ciò che ha imparato nell'ambiente stesso. E Diciamo che il quindi senso del limite non era proprio la qualità più spiccata in famiglia. no, assolutamente. Per cui c'erano realmente queste situazioni incredibili per le quali i suoi compagni di squadra avevano paura nel non passargli la palla perché altrimenti potevano essere in qualche modo puniti con delle modalità tra le più, insomma, tristi. Una di queste poteva essere, mi raccontavano, io non l'ho visto con gli occhi, però posso dire ciò che mi raccontavano, che potevano essere picchiati da persone mandate dallo stesso Al-Sadi, oppure qualcuno aveva addirittura paura di entrare in carcere per qualche notte. E quindi c'era questo clima di farsa totale, per cui era molto molto facile che questa squadra vincesse rispetto ad altre, anche perché ovviamente non si può condannare nessuno, ovviamente, ma il coraggio non era sicuramente la qualità maggiore da parte degli arbitri e di tutti coloro i quali dovevano gestire le situazioni anche di regolamento stesso del gioco del Eh calcio. beh, Comprensibilmente, ovviamente. infatti, invece qual era il rapporto con gli allenatori, e in particolare con Mister Bersellini, che inevitabilmente sia per ruolo ma anche per nazionalità era figura terza rispetto a questo contesto? Il mio rapporto con Bersellini di un certo tipo e poi Bersellini con la Libia di un altro. Per quanto riguarda il rapporto personale direi ottimo. Io ho conosciuto una persona veramente a modo, gentile. La ricordo quando ero bambino, andavo a San Siro e veniva chiamato il generale di ferro e quindi c'era questa nomea che in teoria doveva rappresentare un personaggio estremamente duro, severo, alquanto burbero. In realtà è tutt'altro. Io ho conosciuto questa persona e questo famoso allenatore da Borgotaro, che molto gentile, molto disponibile, ancora entusiasta del suo lavoro nonostante fosse ormai alla fine della carriera e quella era una sorta di buona pensione. Poi lui con l'ambiente libico in generale, al-Sadi Gheddafi, aveva un rapporto direi molto molto tranquillo, di estrema direi cordialità. Diversa era la cosa invece di Scoglio. Ricordo che Scoglio in quel periodo era su tutte le furie perché nel momento in cui tu firmavi il contratto con loro ti ritiravano immediatamente il passaporto. E quindi Scoglio in quel periodo voleva tornare in Italia per delle problematiche personali, dei motivi personali, ma da mesi non poteva tornare, quindi era in una sorta di gabbia dorata, perché effettivamente i pagamenti, gli stipendi e quant'altro erano veramente elevati per queste persone, ma d'altra parte gli veniva tolta quella che era appunto la base essenziale, la libertà. E in quel momento lo ricordo veramente arrabbiatissimo, proprio perché non capiva come mai lui non potesse tornare in Italia come quando credeva, sempre nei limiti diciamo, dei contrattuali, e per cui la sua esperienza è stata un po' più difficile, molto travagliata, molto sofferta. Non vedeva l'ora di tornare in Italia o comunque di tornare libero, in poche parole. C'è invece un episodio particolare di Sadi al-Gheddafi che ricordi del Sadi al-Gheddafi calciatore o pseudo-calciatore, che dir si voglia. Direi che un episodio che ricordo era proprio un momento di rabbia sul campo, una rabbia quasi direi isterica, proprio per non aver ricevuto dei palloni che lui pensava di meritare di poter ricevere da parte dei compagni. E in quel momento ricordo gli occhi direi terrorizzati di questi ragazzi che si vedevano subito minacciati di un qualcosa di pesante. Beh, davvero grazie a Stefano Tirelli per averci raccontato queste storie di calcio africano. Staremo a vedere davvero come rinascerà il calcio nella Libia libera e speriamo democratica del dopo Gheddafi e che molto probabilmente, notizia proprio di questi giorni, avrà proprio in Claudio Gentile il proprio commissario tecnico della nazionale. A bordo campo. Il gesto dello chapeau rappresenta la profonda ammirazione che 12 personaggi noti dello sport e dello spettacolo nutrono nei confronti delle prestazioni degli atleti dello Special Olympic. È un atto simbolico doppiamente significativo per il fatto che i volti raffigurati nel calendario che oggi vi raccontiamo qui e vi descriviamo qui a bordo campo sono quelli di sportivi che proprio in virtù dei sacrifici fatti in un'intera carriera sanno apprezzare la tenacia e la determinazione degli atleti con disabilità intellettiva, perché questi sono gli atleti che fanno capo a Special Olympics. E allora, oggi di questa iniziativa parliamo a bordo campo qui a Radio 24 con un ospite speciale che per l'occasione è anche uno dei protagonisti di questo calendario 2012. Benvenuto a Marco Mordente. Ciao a tutti, grazie del vostro invito. Allora, Marco Mordente, capitano della nazionale azzurra di basket, guardia tiratrice da poche domeniche della Acea Roma. Beh, Marco, innanzitutto, com'è nata questa iniziativa del calendario Special Olympics e come mai hai deciso di aderire proprio al movimento Special Olympics? È nato tutto per caso perché comunque 2 o 3 anni fa, la prima volta che l'Eurolega portava in campo questi ragazzi e diventava comunque testimonial di Special Olympics, ho messo fin da subito i lacci, i famosi lacci rossi, no? Che sono un po' il simbolo di queste iniziative. Da quel momento lì, chissà perché, non lo so bene, però forse perché mi hanno portato fortuna, forse perché comunque sono un po' legato a questi ragazzi, visto che in famiglia ho una cugina che ha problemi simili, mi sono talmente affezionato che alla fine, quando mi hanno proposto di diventare testimone, non ci ho pensato neanche un secondo, perché è stata una cosa così naturale, spontanea, veramente con orgoglio e con grande piacere ho accettato. Eh sì, cioè, pochi decimi di secondo per mettere dentro questo tiro da tre punti, riuscitissimo direi. Senti, mi piace molto anche l'idea del progetto Chapeau, no? Il gesto del cappello, del rendere onore, perché nasce proprio dalla volontà di rendere omaggio agli atleti Special Olympics Italia. Togliersi il cappello esprime il rispetto e l'ammirazione che voi grandi sportivi, insieme a te, Margherita Grambassi, Stefano Baldini, il campione olimpico di Atene di maratona, Danilo Gallinari, che insomma tu direi che conosci abbastanza bene, poi Maicon, Giorgio Rocca, Francesca Schiavone, insomma a far l'elenco si finisce la puntata. È proprio la grande ammirazione che esprimete nei confronti di questi ragazzi. Ecco, qual è la lezione più forte, oppure il momento più forte che ti è capitato di vivere giocando con gli Special Olympics? Che anche loro attraverso lo sport dimostrano a se stessi e agli altri che hanno comunque delle grandi abilità, a volte inaspettate, e la forza che comunque loro, l'impegno, la voglia, l'entusiasmo con cui fanno lo sport. Questo è quello che mi colpisce, che non si fermano, non hanno paura, hanno veramente coraggio. Questa è una cosa che più di una volta mi ha catturato e mi ha comunque anche un po' caricato, perché alla fine poi mi fa pensare e quando così mi rende ancora più orgoglioso di essere uno dei loro testimonial. Capita magari di ripensarci a queste sensazioni nel momento decisivo di una partita con la maglia azzurra o magari del campionato di Serie A, no? Credo che forse in uno sport a livello professionistico in cui anche il dettaglio fa la differenza, avere nel proprio serbatoio di memorie anche questa esperienza qualcosa in più e forse non poco aggiunga, eh? Secondo me, visto che noi siamo comunque personaggi dello sport, ma soprattutto personaggi pubblici a 360 gradi, possiamo essere degli ottimi portatori di messaggi. Questi messaggi devono essere, secondo me, positivi. Non è possibile che la maggior parte delle volte si parla di sport, soprattutto in Italia, di calcio, si pensa a quando ci sono degli scontri oppure quando c'è qualcosa di particolarmente eclatante in campo. E invece bisogna ricordare che lo sport è una cosa bella, è un'emozione da poter vivere a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta. E essendo il capitano della nazionale, essendo un giocatore oramai diciamo esperto e non vecchio, mi sembra giusto che continuare a essere così un portatore di questi messaggi, perché bisogna dare questi esempi, bisogna essere di esempio ai ragazzi giovani, ai ragazzi che comunque sono piccoli, iniziano a giocare, iniziano a divertirsi, che molto spesso non sanno neanche che esistono gli Special Olympics, non sanno che ci sono tantissime attività che si fanno quotidianamente, ci sono squadre fatte da ragazzi con squadre miste, cioè ragazzi normali, ragazzi con problemi mentali, e che comunque il fatto di stare con loro aiuta tantissimo non solo ai ragazzi tra virgolette con disabilità intellettiva, ma soprattutto ai ragazzi normali, perché comunque è un modo di stare insieme, di vivere lo sport, ma poi anche di crescere all'interno della società. Beh, a questo punto toglici una curiosità e soprattutto ai nostri ascoltatori, che poi potranno vederlo anche sul nostro sito su www.radio24.it sulla pagina di A Bordo Campo, però descrivici anche il mese e la foto di cui sei protagonista. Doveva essere una cosa molto naturale, spero lo sia venuta, anche se non mi era mai capitato di poter fare una foto con questo gesto dello chapeau. Mi sono divertito in quell'occasione, l'abbiamo fatte diverse, alla fine abbiamo scelto questa, semplice, con un pallone da basket, i soliti laccetti rossi legati a un polso, il mese di novembre. Io sono felice di poter essere in mezzo a veramente a tanti campioni che hanno scritto pagine e pagine dello sport italiano e che sono stati comunque per me un grande riferimento, perché se parlo a Baldini penso ancora alle emozioni che mi ha fatto vivere quell'ultimo giorno dell'Olimpiade quando è entrato e ha vinto la medaglia d'oro, oppure a Schiavone, che è carattere, carisma, una forza d'animo pazzesca, così come al Gallo, che è un amico. Linus, che non è uno sportivo professionista, però è uno che ci dà di brutto dentro. Davvero è stato venuto fuori un calendario veramente bello, diverso dagli altri, dai soliti, perché alla fine spesso e volentieri diventano i soliti calendari, e questo invece è qualcosa di nuovo, di simpatico, soprattutto un gesto di solidarietà nei confronti degli Special Olympics. È sicuramente una bella squadra anche tra voi campioni dello sport, tra voi testimonial. Ora però c'è tutto un campionato da affrontare, bisogna far bene anche con Roma, Marco? Te lo dico, pressione, te lo dico quasi da tifoso, dai, faccio outing. Allora, dobbiamo crescere e maturare, perché comunque per capire che ci possiamo togliere delle soddisfazioni in campo, visto che comunque le qualità tecniche e il talento ci sono, però bisogna crescere sull'aspetto mentale. Piano piano, però sono fiducioso e spero di poter continuare a inserirmi come sto facendo. Beh, allora, intanto Marco Mordente, in bocca al lupo d'obbligo per il 2012, che ti vedrà protagonista sul campo e sul calendario Special Olympics, anche se dobbiamo aspettare fino a novembre per vedere la tua pagina. E grazie davvero per essere stato nostro ospite qui a Bordo Campo e su Radio 24, e permettici di salutarci con uno chapeau, proprio perché è stato un grande onore parlare con un campione come te. Grazie a voi, è uno chapeau sempre e comunque verso i ragazzi di Special Olympics. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi anche attraverso il blog del programma, sempre nella nostra pagina web. L'appuntamento, come d'abitudine, per domenica prossima alle 14.30 ed in replica il sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.